America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Fate bene attenzione a questa registrazione che sto per farvi ascoltare, perché è una conversazione privata, anzi privatissima, che i microfoni hanno strappato senza che lo sapessero a Barack Obama e Dmitry Medvedev, a un piccolo vertice che i due hanno avuto a Seul. Ecco quello che dice a un certo punto Barack Obama, sporgendosi in avanti verso Medvedev. Gli dice: questa è la mia ultima elezione, dopodiché avrò più flessibilità. Ecco, Barack Obama si spinge in avanti mentre dice questa cosa in confidenza a Medvedev, come se fosse appunto una cosa intima tra amici, e Medvedev gli risponde subito: capisco, trasmetterò questa informazione a Vladimir. Ecco, è raro che una conversazione fra due leader di superpotenze diventi pubblica, come è successo in questo caso. A cosa si riferiva Barack Obama? Beh, la partita che si sta giocando a Seul è per il controllo della proliferazione nucleare, una partita che riguarda l'Iran e che riguarda la Corea del Nord. Barack Obama ha avuto un incontro con il leader cinese Hu Jintao, da lui ha avuto una piccola apertura, una promessa di esercitare pressioni su Pyongyang perché ci sia una maggiore flessibilità. Ma devo dire che la mia sensazione è che alla fine il vero problema riguarda l'Iran, non riguarda la Corea del Nord. Perché? Beh, bisogna distinguere: il regime nordcoreano non presenta neppure lontanamente le preoccupazioni poste dal regime degli Ayatollah a Teheran. È vero, c'è il Giappone che ogni tanto si innervosisce, però da un punto di vista realista la Corea del Nord non è un pericolo né in termini di espansionismo né di destabilizzazione regionale. L'Iran invece è un pericolo. Un suo passaggio alle armi nucleari scatenerebbe una corsa all'atomica in Arabia Saudita, in Egitto. Resta aperta, in mancanza di soluzione, la possibilità di un attacco israeliano. C'è infine il rischio dell'espansionismo sciita ai danni dei sunniti. La chiave è la Russia, che tentenna. Perché tentenna la Russia? Perché l'Europa e gli Stati Uniti stanno costruendo uno scudo missilistico che dovrebbe proteggerli da un possibile attacco iraniano. Questa cosa alla Russia non piace affatto, e allora la Russia dice: no, un momento, io resisto sull'Iran fino a quando tu non la smetterai con la costruzione di questo scudo missilistico. Perché? Beh, perché uno scudo missilistico è vero che è diretto verso l'Iran, quindi in teoria dovrebbe intercettare missili in arrivo dall'Iran verso l'Europa, però potrebbe facilmente essere girato questo scudo e neutralizzare il deterrente nucleare sovietico. E dunque, mentre parlano evidentemente di questa situazione, nel momento in cui la Russia, come ricorderete, ha posto un veto sulla risoluzione contro la Siria per le stesse ragioni, ecco, Barack Obama si fa sotto e promette flessibilità dopo le elezioni. Perché questa cosa è grave? Beh, non soltanto perché in qualche modo anche alle spalle degli europei Barack Obama potrebbe vendere la pelle dell'orso, ma perché siamo davvero in campagna elettorale. Quando Barack Obama fa il riferimento alla campagna elettorale, in qualche modo si mette in imbarazzo e nei problemi da solo. This is no time for our president to be pulling his punches and not telling us what he's intending to do with regards to our missile defense system. Un comizio a San Diego, in California, di Mitt Romney. La California è uno stato chiave per Mitt Romney perché ha 172 delegati in palio, e questi 172 delegati potrebbero andare tutti a lui, dunque potrebbe essere un passaggio importante per la vincita della nomination. Romney dice: questo non è il momento per il presidente degli Stati Uniti di non essere trasparente con gli americani, di non essere trasparente sulle sue intenzioni riguardo alla questione missilistica, la difesa nazionale, il nostro impegno verso Israele e la nostra assoluta opposizione al nucleare iraniano. Qual è il problema di Barack Obama? Beh, che evidentemente sta dicendo: io durante la campagna elettorale dovrò giocare la mia parte, ma dopo poi verremo a patti. Ho scelto questa musica da Perfect Storm, è uno dei temi della colonna sonora di Perfect Storm, uno dei film epici americani, perché devo dire che quel che è successo ieri a Washington è molto particolare. Pensate, 26 stati si sono coalizzati per andare alla Corte Suprema e rivendicare il fatto che l'Obamacare, la riforma sanitaria di Barack Obama, è anticostituzionale. Ecco, immaginate la scena, perché sul piano istituzionale è da anni che non si vedeva uno scontro contro a questi livelli. Da una parte schierati 26 stati americani contro l'amministrazione, al centro la riforma sanitaria, che è uno degli argomenti più delicati nella campagna elettorale, e i grandi giudici sono i giudici della Corte Suprema americana, che sono tra l'altro in maggioranza di orientamento più conservatore e vicino ai repubblicani. Gli stati ritengono che la riforma sanitaria di Barack Obama sia anticostituzionale perché impone al cittadino di acquistare una polizza assicurativa, dunque gli toglie la libertà, e la Costituzione esclude che possano esserci imposizioni per negoziati commerciali. Dunque questa è la base, ma la storia è più complicata, perché Barack Obama impone una multa a tutti coloro che questa polizza non la sottoscrivono. Ecco, ieri è cominciato questo confronto, devo dire epico, ne hanno parlato tutti, le televisioni, le radio, prime pagine dei giornali, perché da una sentenza di questo genere, nel caso dovesse trovare l'eccezione e confermarla, potrebbe davvero esserci una conseguenza catastrofica per tutto il sistema giuridico americano, perché una gran quantità di altre leggi a cascate potrebbero essere messe in dubbio. La procedura di per sé è molto interessante, 3 giorni, al primo giorno si discute se c'è merito per la discussione di questo caso, nel secondo giorno si discute appunto la questione dell'imposizione, nel terzo giorno si stabilirà se, trovata l'eccezione, l'intera riforma sanitaria potrebbe essere annullata. If you look at 75% of the American public opposes Obamacare and its mandate, and Governor Romney was the author of the mandate in Massachusetts and advocated for that mandate at the federal level. He advocated for what we're now in front of the Supreme Court saying is unconstitutional. Ecco, avete sentito Santorum intervenuto a gamba tesa su questo dibattito, cerca di capitalizzare. Perché? Perché, e qui davvero il cerchio si chiude in questa giornata straordinaria, perché Mitt Romney aveva a sua volta ideato in Massachusetts una riforma sanitaria molto simile a quella di Barack Obama, e si dice, ed è attaccato dai suoi compagni repubblicani, che Barack Obama si sia ispirato proprio a quella riforma per costruire la sua. Dunque una battaglia davvero straordinaria quella di ieri per la sentenza della Corte Suprema. Dovremmo aspettare a giugno, tempi brevi, anzi brevissimi, per quelli ai quali in genere siamo abituati noi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi è l'anniversario di uno dei più grandi successi americani degli anni 80. Sto parlando di Time After Time di Cyndi Lauper. Lo ricorderete sicuramente, il single uscì il 27 marzo del 1984 e dunque dedichiamo la canzone del giorno a Cyndi Lauper, Time After Time. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.